Sette spaccate, qualche secondino, via. Martedì 18 marzo 2008, l'anno della svolta. Dai piccoli ma accoglienti studi di Rock FM, siti in via Locatelli 1, 20, 124 Milano, l'emittente è orgogliosa di offrirvi la colazione calda e fragrante che risponde al nome di pane, burro e rock and roll. Vogliate gradire, sciori e sciore, in diretta fino alle 9. Ci siamo noi, ciao. Pane, burro e rock and roll. Ciao dall'Ariele, ciao da Spadino. La tua colazione rock. Per ora ci siamo solo noi, Pane, burro e rock and roll. E ovviamente Mister Trombetta, immancabile. E tenetevi forte. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Mi complimento con voi, miei cari amici, un'ottima abitudine quella di sintonizzarsi su Rock FM a quest'ora della giornata, perché c'è la colazione più rock d'Italia, pane, burro e rock and roll. Puntata 206, quella che andremo a sciolinare da adesso per le prossime due ore, ricca di ottima musica, pregna di interventi targati Roberti e Friccantoni, e quindi state belli precisi. E con un sacco di buona musica, l'ho detto? No, ce lo aggiungo adesso, perché ovviamente è quell'ingrediente che fa sì che questa sia una trasmissione ascoltabile. Spareremo stupidate tra una cosa e l'altra, insomma, la classica forma di PBR, no? Ormai dovreste conoscerci. Si inizia così. Fight you, make the big time. You're so chic, take me where the love we eat. Rock Music. Virginia Blaine. Permettetemi di invitarvi alla colazione più rock d'Italia grazie a una linea di SMS gratuita, che non siamo in televisione e vi babbiamo euro su euro solo per farvi interagire con noi. L'interazione è libera, è gratuita, è onesta e sincera. 338 e sì, buonanotte. Stavo dando il numero di Rock TV. Rock FM 335 100 7777. Ce la posso fare stamattina, vediamo, io mi ci metto di impegno. La casella di posta elettronica invece, Ariel @radiorockfm.com. nella puntata di ieri, clamore che è scattato causa segnalazione di spot televisivo sul canale televisivo lombardo Tele Lombardia, riguardante un programma di musica liscio che ha un promo dove dei vecchietti suonano Smoke on the Water, dopodiché il rock viene battuto dalla musica liscio. Questa cosa ha scatenato parecchi messaggi ieri. Io volevo confessarvi che ho visto il promo ieri, avevo una mezza idea di cercare di proporvelo in audio, ma in audio non ha un gran senso, quindi adesso cercherò degli infiltrati a Tele Lombardia per cercare di pubblicarlo sul sito e poi prenderemo delle decisioni. Ok? Perché già ieri scattava la proposta di boicottaggio di Tele Lombardia. Siete veramente dei rocker voi là fuori, eh? Ma guarda, sporchi, brutti e cattivi, come è giusto che sia. Subito al boicottaggio si è gridato, ma no, dai. Vediamo di inventarci qualcosa di più creativo, di più collaborativo, no? Si va subito alla lotta, no, dai. amiche. Sì. Se l'abbiamo sfangata col cosa? 17, ah. Adesso è un gioco da ragazzi il affrontare 18. Il 18. È un 18 in discesa. Esatto, tutti in discesa. Buongiorno. E lei sa, buongiorno DJ Ariele. Cosa devo sapere? E lei sa, come sì, come sanno i nostri amici e le nostre amiche, sì, in ascolto, che per andare in discesa, andando in discesa, tutti i santi aiutano. È saggezza, e che popolare. È saggezza popolare. È con la saggezza. È forti. È forti. È forti. Di questo detto popolare affrontiamo il 18 di marzo. Via. Lei sa che il 18 di marzo del 1813, sì, venne brevettata l'illuminazione stradale a gas. Quasi un secolo. L'illuminazione a gas. Sì, per strada. A gas. Ma è una rivoluzione incredibile. Sì. Finalmente ci si vede anche di notte. Un filo pericolosa, credo, ma sì, ci si alla vede lunga, di notte. Sì, sì, potrebbe, sì, essere, sì, carina, sì, come idea. Ma senta la prossima informazione, la prossima notizia. E la faccia a Cinegiornale, gentilmente. Sì, volentieri. Dopo che il giorno precedente Venezia insorse, a Milano Carlo Cattaneo, sì, ottiene alcune concessioni dal vice governatore austriaco, peraltro subito annullate dal generale, sempre austriaco, Joseph Radetzky. Pertanto Cattaneo, il mitico Carlo Cattaneo, e i suoi insorsero, iniziando così le cinque giornate di Milano. Queste notizie dell'Almanacco sono sempre selezionate da Isacco, che ci tiene a fare una rubrica sulla storia d'Italia, vero Isaac? Prima o poi uscita in fascicoli. Sì, è per non dimenticare questo. Giusto, giusto. La redazione ci ricorda che la memoria storica non va persa. Ok, 18 di marzo del 1969, un certo Renzo Arbore inaugura la prima trasmissione televisiva dedicata alla musica giovane. Si intitolava Speciale per voi e ne era curatrice Ivana Veltroni, madre di Walter. Beh, piazzati Veltroni, era famiglia tutto... simpatica. Peraltro, però dicevo, il papà era direttore della TV, la mamma era curatrice dei programmi. Lei sta, guardi che non si possono dire queste cose. No, ma lo dico con simpatia, con estrema simpatia, perché insomma sono stati protagonisti della storia televisiva e radiofonica italiana. E lei, essendo protagonista della musica italiana, è mai stato invitato a Speciale per voi? Ecco, questo non è successo e colgo l'occasione per lamentarmi con la signora Veltroni. Fa bene, fa molto bene. Scriveremo immediatamente una lettera di protesta. Mentre concluderei l'almanacco di quest'oggi, sì, con una notizia datata 18 marzo 1990. 12 dipinti per un valore totale di 100 milioni di dollari vengono rubati dall'Isabella Stewart Garden Museum a Boston, Massachusetts. È il più grande furto d'arte della storia americana. Ha due cose da dire. Sì. La prima è che mi ha molto impressionato la sua pronuncia di Massachusetts. Massachusetts. E le vorrei fare i miei complimenti. Grazie mille, ho studiato. Anche la coda mi è piaciuta molto. La seconda cosa volevo chiederle, sì, dottor Ariel, ma quei quadretti che ho visto nello suo scantinato, quel Van Gogh. I Magritte. Le ho detto che non ne parlavamo in onda, gentilmente. Ah. Va bene, allora non ne parliamo. Però sono piazzabili. Ah, parliamone. Tagli da 50. Sì, quelli che si smazzano presto e subito. Yeah. i Kiss. Dovete fare il ballettino Kiss però qua, quello tutto un po' a destra, un po' a sinistra, ve lo ricordate? Confermata allora la seconda data per il ritorno in Italia dei Kiss, oltre all'ambita Arena di Verona, anche appuntamento milanese per il mitico quartetto truccato dei Kiss. Mi sa che non me li perdo neanche sto giro, Si va truccati, Spadino? Si potrebbe, no? Anche Frick sta benissimo truccato. Non ci avete mai visto truccati da Kiss? Non avete visto il calendario 2008, l'anno della svolta? Allora siete fuori. Vi va una pelle splendida a quest'ora della giornata? Stringimi madre, un monto peccato, ma la vita è un suicidio, l'amore è un robo. E voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida. Senza un finale che faccia male, con cuori sporchi e le mani lavate a salvare. Hai paura del buio? Sì. Ma sì. After Hours. Voglio una pelle splendida. Era un album bellissimo. Veramente bellissimo. 7:21 minuti primi. L'Ariel e la squadra di Pane, Burro e Rock and Roll. Ovviamente. Aperta ai vostri commenti e ai vostri saluti. Cosa state facendo? Dove andate? Cosa fate? Un fiorino. A che gruppo d'ascolto appartenete? Ma siete dei rocker oppure no? Sono le domande che girano vorticosamente nel nostro cranio. Saluti a Silb 16 ruote da Firenze, che faceva notare inizio trasmissione che quest'oggi le frequenze si allungano di Rock FM. E leggo questo messaggio all'ultimo invece arrivato dal gruppo d'ascolto Contadinelle Rock, capitanato da Marzia di Pisa, che mi segnala che c'è vento forte da quelle parti. E ho scoperto perché. Che il vento trasporti il segnale di Rock FM più in basso! Soffia vento e trasporta nell'aereo Rock FM. Così. Ciao patente 613. Ti perdoniamo. Saluti anche a Claude. Ieri prima uscita di stagione con la mia Dragstar Custom SS. SS sta per Super Sburona. Biker rocchettaro di nuovo in giro per le strade della Romagna. Bella Super Sburona, no? Potremmo fare un pane, burro e rock and roll speciale SS. Super Sburone. Sfricannuisce. Saluti anche a Meg da Milano. Andiamo a salutare il gruppo d'ascolto Idraulici, detti anche Trombai. Quindi salutiamo il gruppo d'ascolto dei Trombai con il nostro patentato 987. E il saluto va anche a Mario, il nostro mitico carrista di Celle Ligure. Grande Mario. Chissà come ho messo con il premio. C'era il trofeo Fantozzi da fare. Bisognerebbe risentirlo uno di questi giorni. Salutiamo anche Nico da Imola che commenta ancora. Io ragazzi vorrei distogliere l'attenzione da quello spot di Tele Lombardia, ma voi continuate a darci dentro, soprattutto voi di quelle parti là, che secondo me ci avete un po' la carognetta col ballo liscio, più che nelle altre regioni, chissà. Nico da Imola fa notare: ma se mia nonna vede all'inizio di un brano liscio gente che fa Smoke on the Water, ma chi ci capisce? Non lo so, mica l'ho fatto io, l'hanno fatto loro. Questo dice: mettiamoci a fare casino con le chitarre, eccetera, fuori da Tele Lombardia. Davide. Adesso facciamo un picchetto davanti a Tele Lombardia, potrebbe essere divertente. Beh, un picchetto di PBR prima o poi lo facciamo. Si fa? Si fa, si fa. Ehi, senti qua che sviso, come direbbe Freak. The Rolling Stone, Honky Tonk Woman. Stati temerari. Sono stati capaci di osare. Hanno fatto un provino per diventare musicisti rock con la bocca. Ma avranno il fattore rock? Pane, Burro e Rock and Roll presenta il primo reality telefonico della storia della radio. Il Grande Fattore, alla scoperta del fattore rock. Verranno chiamati nelle ore più impensabili, saranno sottoposti alle prove più dure, dovranno dimostrarci di essere autentici rocker. Solo allora scopriremo chi fra tutti loro ha il fattore rock. Prossimamente qui su Rock FM.